Linee d'ombra di Matteo Caccia. Quando abbiamo visto questo quadro, pensavamo che fosse qualcosa che era rimasto dal gioco precedente e quindi l'abbiamo preso. Quel quadro non era certo un'inutile cianfrusaglia, bensì un'opera d'arte esposta in quelle settimane in una galleria del nostro paese. Storie di opere d'arte abbandonate e di altre rubate in una puntata che si intitola I soliti ignoti. Ti sei mai chiesto perché sei tu ad essere nato qui e non qualcun altro? Hai mai l'impressione di stare ad aspettare che avvenga qualcosa? Ma non sai cosa? Tipo qualcosa che possa cambiarti la vita. Sì. Tipo cosa? Esattamente. Tipo cosa? Si intitola Animali americani, o American Animals è il titolo originale in inglese, il film da cui abbiamo tratto questo scambio. È uno scambio che appartiene a moltissimi film che parlano di adolescenze complicate o banalmente adolescenze annoiate. L'adolescenza è sempre si dice, no? È una fase di passaggio, un periodo di formazione, eccetera, eccetera, eccetera. In questo film questi adolescenti fanno qualcosa che non dovrebbero fare. È una storia vera ed è una storia che vi racconteremo nella seconda parte di questo programma, perché la puntata di oggi si intitola I soliti ignoti e ha a che fare con dei furti involontari o dei furti volontari. E più tardi vi racconteremo questa storia. In generale, però, vi dicevo, la linea d'ombra è proprio quella fase di passaggio che può essere molto stretta, può magari durare un giorno, una settimana, o può durare un anno, può durare 10 anni, mi auguro di no, anche se spesso e volentieri nelle situazioni di confine, nelle situazioni di passaggio, un po' come quella in cui ci troviamo da 2 mesi e più ormai a questa parte, c'è qualcosa, si trova qualcosa. Io non penso che si impari particolarmente dalle situazioni come queste, non credo che si impari moltissimo dalle fasi di passaggio, credo che semplicemente quando siamo di là dobbiamo avere a che fare con un mondo diverso. C'era, se non ricordo male, un film tratto da un romanzo di Cormac McCarthy a proposito di film e di romanzi, appunto, ed era un film che si chiamava The Counselor, mi pare, qualcosa del genere, in cui lui stesso diceva che le nostre azioni creano delle conseguenze che a loro volta creano dei mondi, e quando noi ci troviamo in quei mondi nuovi non possiamo più comportarci come prima, non abbiamo più la possibilità di muoverci come ci stavamo muovendo prima. Eccolo qua, ho trovato la citazione, tipo così: tu stai cercando in questo mondo di riparare errori che hai fatto in un mondo diverso e che non ci sarà più. Mi pare si chiamasse The Counselor il film, comunque so che ci entrava Cormac McCarthy. I momenti di confine probabilmente sono in qualche modo sopravvalutati, no? Se ne parla sempre come di qualcosa che wow, vedrai, cambierà tutto, poi semplicemente in meglio o in peggio, e poi semplicemente ci troviamo in un altro mondo e forse siamo già di là rispetto a quanto non fossimo 2 mesi fa, siamo già di là da questa linea di confine che ha tracciato questo virus, e chi lo sa che magari questo mondo nuovo non ci trasformi in qualche modo dopo averlo trasformato noi, perché è chiaro che insomma qualche responsabilità l'essere umano ce l'ha quando succedono cose come queste, anche in un macrocosmo così ampio come questo. Ma va bene, Linea d'ombra non è fatta per questo. Linea d'ombra è fatta per raccontare delle storie, e delle storie noi vi forniamo, ve le forniamo fresche fresche. Abbiamo le 2 storie che hanno a che fare con un furto, uno volontario e uno involontario di opere d'arte, e ve le stiamo per raccontare, e poi abbiamo i vostri diari dalla quarantena, e poi abbiamo la nostra storia seriale che è cominciata ieri, che ha un peso specifico molto particolare e di cui vi sarete accorti non vi stiamo ancora dicendo nulla, vi stiamo solo raccontando l'inizio, e capirete lentamente che cosa accadrà. Ora mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. In fondo eravamo bravi ragazzi. Era una di quelle sere di fine estate siciliana, dove la calura e l'afa del giorno lasciava spazio all'aria fresca della notte. Io e il mio gruppo di amici avevamo deciso di trascorrere la serata a casa della mia fidanzata. Una casa situata nel cuore del centro storico del mio piccolo paese, in uno scorcio che si districa tra vicoli e piccole strade a ciottoli. Quella sera ero senza auto e a fine serata chiedo un passaggio a Davide, uno dei miei amici. Mentre scendevamo dalla scalinata che ci avrebbe condotto alla nostra macchina, sulla strada principale, ci accorgiamo che nella penombra di un angolo era appoggiato un grande quadro. Quel quadro era messo di lato e in quel quartiere, bene o male, siccome ci sono sempre dei trasferimenti, perché le case sono molto piccole, stiamo parlando di un 15 metri quadrati, perché è un quartiere antico di Comiso. Quindi non è strano trovare dei mobili antichi buttati per strada, perché fanno dei traslochi e la maggior parte delle volte vengono buttati. Ne scorgiamo inizialmente solo le forme e incuriositi ci avviciniamo per guardare meglio. Non era insolito trovare oggetti della qualsiasi, abbandonati per quelle viuzze abitate da stranieri spesso impegnati in infiniti traslochi. Il primo pensiero di Davide fu che quel quadro si abbinasse perfettamente allo stile del suo monolocale. Il mio istinto mi suggerì così di prendere quell'oggetto, caricarlo con entrambe le braccia e portarlo con noi. Scendemmo tutti quei gradini con quel grosso affare in mano, tenendolo ben alto. Attraversiamo la via centrale e la carichiamo a fatica nel cofano della macchina, abbassando peraltro anche i sedili posteriori, e finalmente partiamo. Ci dirigiamo prima a casa di Davide per posare quel quadro, così che anch'io possa dargli una mano nel tirarlo fuori dall'auto, e proprio durante il tragitto il mio amico non fa altro che ripetere che quel coso non sembra un oggetto da niente e gli suona strano che fosse stato abbandonato lì in un angolo come qualcosa di poco valore. Giunti a casa riusciamo a controllare meglio quell'oggetto. Il quadro raffigurava un trattore d'epoca ad olio su vecchi listelli di legno. Mi resi conto che le parole di Davide non erano del tutto infondate, e più ancora credevo di averlo addirittura già visto da qualche parte. Till the Mi attanagliava al pensiero di dove l'avessi visto. Ne ero quasi certo che ai miei occhi non fosse un'immagine nuova. Ed ecco un flashback. Una rivista d'arte tra i libri di mio suocero. Per avere conferma chiamai la mia fidanzata e chiesi informazioni su quella rivista, raccontando brevemente l'accaduto. A quel punto, dopo attimi di silenzio, mi sento spiazzare da una sua esclamazione gridata sottovoce. «Ma che cazzo avete fatto?» Proprio quando noi stavamo per portare il bottino a casa, la mia fidanzata, osservando dal balcone, notò due uomini salire e scendere dalle gradinate con affanno e agitazione. Chi erano quegli uomini? Erano due pittori che qualche mese prima avevano preso in affitto una casa lì di fronte come personale laboratorio di pittura. Eh sì, quel quadro non era certo un'inutile cianfrusaglia, bensì un'opera d'arte esposta in quelle settimane in una galleria del nostro paese. Ed era proprio quello recensito nella rivista d'arte che avevo visto. Io telefono la mia ragazza perché sapevo che quella brochure dove c'era dipinto il quadro l'avevo visto a casa della mia ragazza. Fondamentalmente lei mi dice che sapeva della mostra e quindi mi dice che il pittore era di sotto e stava scaricando i quadri. La mia ragazza collegò in un baleno i fatti e capì che l'agitazione dei due uomini era data dalla scomparsa proprio del quadro che era stato appoggiato in quell'angolo, in penombra, proprio per non essere visto nel frattempo che loro finissero di prendere dalle loro auto le altre opere. Ecco che da un capo all'altro del telefono scattò il panico. Che cosa fare in quel momento? Come comportarsi? Era stato chiaramente un furto, inconsapevole ed ingenuo, ovviamente, paradossalmente un furto perfetto però. Decisi allora di riportare il quadro al legittimo proprietario, che intanto era stato avvertito e tranquillizzato dalla mia ragazza. Arrivai col quadro in mano e la vergogna in viso, temendo che quella sera avrei ricevuto se non una denuncia, almeno una sberla pittoresca. Fortunatamente l'uomo non reagì come immaginavo, ma mi fulminò con lo sguardo e mi ammonì con un rimprovero più dettato dallo spavento che dalla rabbia. Io, dal canto mio, non potei fare altro che cercare di spiegare e scusarmi almeno un migliaio di volte. Di certo, se non fossimo stati dei bravi ragazzi, in questo momento ci saremmo trovati un capolavoro attaccato alle pareti di un anonimo monolocale e una storia da non poter raccontare. For the streets of Rome are filled with rubble. Aged footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double. On a cold, dark night on the Spanish stairs. Got to hurry on back to my hotel room, where I've got me a date with Botticelli's niece. Yup, she promised that she'd be right there with me. Did I pay? Oh, the hours that I've spent inside the Coliseum, dodging lions and wasting time. Oh, those mighty kings of the jungle, I could hardly stand to see them. Yes, it sure has been a long, hard climb. Train reels running through the back of my memory. As the daylight hours do increase. Someday everything is gonna be smooth like a rhapsody. When I La puntata di oggi di Linea d'Ombra si intitola I soliti ignoti. I soliti ignoti è il titolo ovviamente di un film che racconta di questi ladri piuttosto maldestri e effettivamente, in quanto a maldestria, Paolo e i suoi soci si sono ben difesi. Pronto, ciao Paolo, buongiorno. Ciao Matteo, ciao. Come stai? Tutto bene? Sì, sì, sì. Senti, tu raccontami... Per quanto si può stare bene, no? Esattamente, esattamente, in questo momento. Tu sei di Comiso, giusto? Sì. Ma tra l'altro a Comiso, sbaglio, c'è un aeroporto nuovo da qualche tempo in provincia di Ragusa? Sì, era un'ex base militare che anni 70 c'è stato i missili cruiser, ci sono stati Di polemiche. Giusto. E adesso invece è un aeroporto civile? Sì. È aperto da un paio d'anni. Ma quanti abitanti ha Comiso? Sui 30.000. Ah, ok, sì. è una cittadina. E tu vivi e lavori lì? Sì, perlomeno sì. La cantina dove lavoro è a 20 km di distanza, però siamo sempre sullo stesso territorio. Perché tu mi dicevi fuori onda poco fa che lavori in una cantina, cosa fai esattamente? Sì, per lo più faccio manutenzione all'interno e in questo periodo sanificazione delle vasche, perché ci stiamo preparando per la nuova vendemmia. Che tipo di vino fate? Ma bene o male un po' di tutto, dal Nero d'Aula al Grillo, che è uno dei... cioè il territorio lo permette. In questo momento sei, per l'invidia mia quantomeno e di gran parte delle persone che ascoltano, sei all'aperto sotto il cielo, sotto il sole? Effettivamente no, perché lavoro all'interno della cantina, quindi il sole lo vedo poco. Ah, ok, ah, certo, giusto, perché se lavori con le vasche, con la manutenzione, sì. Effettivamente. Uno quando, perlomeno uno, io nella mia scarsa fantasia, quando penso a una cantina, penso alle vigne, ai filari, alle colline, invece poi i lavori sì, perfetto. Sono... Noi abbiamo tutto questo, sì. Però sono vari settori, quindi io mi occupo solamente di questo. Okay. Poi ci sono gli altri che lavorano in campagna. Senti Paolo, tornando là, esattamente quanti anni fa succedeva questo episodio che ci hai raccontato? Ma all'incirca 2 anni fa. Ah, qui... tu quanti anni hai? Ne hai una trentina, giusto? Sì. Ah, perché da come raccontava la storia sembrava essere, non so, eravamo dei ragazzini, avevamo 16 anni. Invece no, avete visto un quadro appoggiato lì e ha detto, boh, non è male, no? Ma lo sai perché? Perché come spiegavo nella storia... Sì. Il quartiere della mia ragazza è un quartiere molto antico e le case sono piccole e sono per lo più abitate da stranieri che vengono qui per lavorare. Ah. Tu immagina che le case sono un 20 metri quadrati perché sono case prima della guerra. Ma parliamo di Comiso o di Ragusa? Sì, Comiso. Di Comiso, ok. Hai presente Ragusa Ibla? Certo. Che è arroccata sulla... Sì. Il quartiere antico di Comiso è sì, molto simile. Ah, ok. Sì, le casette sono piccole e per lo più, siccome ormai si è decentrato il paese, le case sono state tipo si affittano per i migranti la maggior parte. Sì, insomma, per capirci, per chi magari non ci fosse mai stato, Ragusa Ibla è quel posto magnifico che viene raccontato nella serie di Montalbano, quindi parliamo di quel barocco siciliano meraviglioso che caratterizza tutta quella costa, Ragusa, Modica, posti Noto, Siracusa per certi versi. Sì. Una zona veramente meravigliosa che ricordo, insomma, che per qualche anno ho frequentato per motivi personali, quindi ricordo con grande affetto. Senti, chi sono questi pittori? Chi erano? Erano particolarmente famosi? No. Allora, il pittore si chiama Salvo Catania. Ah, ok. Quindi se lo chiami per nome vuol dire che io non lo conosco, però che immagino abbia un senso. Sì. Lui ha fatto delle mostre, quindi il quadro aveva anche un valore abbastanza alto. Abbastanza alto. Senti, che faccia ha fatto quando gliel'hai riportato? Ma guarda, la scena è stata come se ti ricordi il film di Checco Zalone quando ha portato il quadro all'interno del museo. È stato qua. Tutto è stato fatto però a fin di bene, perché per me era qualcosa che era stato gettato lì, perché c'era stato sicuramente un trasloco e quindi... avevano lasciato lì quello che non gli serviva. Sì. Ci siamo accorti dopo del dramma. Questa è una cosa che devo dire spesso anche, insomma, in città, a Milano, soprattutto quando passa o quando qualcuno deve buttare via qualcosa e passa l'AMSA, no? Che è l'azienda che recupera il materiale ingombrante, spesso volentieri non arriva fino all'ora della mattina in cui la portano via, perché la gente dice, ma quella sedia, ma quel tavolo, ma non è così male. Sì. Un recupero dei vecchi mobili. Certo, lo sento dalla tua voce, Paolo, che tu sei assolutamente una persona per bene, di buone intenzioni. Nei film migliori c'è sempre tipo quella cosa che non fa funzionare il furto. Il nostro caso è stato la coscienza. Guarda, e invece la tua storia mi ha dato il là per raccontare subito dopo questa telefonata, un'altra storia, come sai raccontiamo più di una storia che stanno insieme, e sono entrambe storie di furti andati male. Il tuo non era un furto, però insomma, in qualche modo per l'autore del quadro lo è stato, anche se poi tutto si è risolto in questo modo. E la prossima storia invece parla di quattro ragazzotti che cercano di mettere in scena un furto, però molto molto più corposo, e gli va male tutto per un indirizzo email, figurati. Quindi quando sentirai la storia capirai cosa è andato storto. Paolo, ti ringrazio per la chiacchierata e per la storia. In bocca al lupo per la tua stagione di lavoro, insomma, per la vostra vendemmia. Grazie. A presto, grazie mille. February, we've owned 7,000 in gold. Two were killed in the melee, a fireman of the train, and a passenger from a pistol. The leader was an insurance agent, this I know. The third man set for remote islands near the equator. When they found the ship would not put in there, there's reason to believe he set her on fire. When a bomb exploded, buckshot unloaded, we three made off and died. To the right on rubble, Council, to the Hawaiian King, I swear before notary to make a clean breast of the whole thing. In hope of salvation, but surely I'll be found before port. Before postal authorities can act, surrender myself unto the reward. Si intitola I soliti ignoti la puntata di oggi di Linee d'Ombra. E il confine tra il diventare un ladro e rimanere una persona onesta ce l'ha raccontato perfettamente, direi, Paolo, nella storia e nella chiacchierata che abbiamo fatto. Ora però sentiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare un'altra storia di un furto di opere d'arte, questa volta però decisamente volontario. Linee d'Ombra. E dopo la storia di Paolo, questa puntata prosegue ora con una storia simile nei protagonisti, ma molto diversa nei contenuti e nella forma. È una storia che arriva dagli Stati Uniti, si è svolta esattamente 16 anni fa. I protagonisti sono quattro ragazzi e dei libri molto antichi e di grandissimo valore. State con noi. Quattro giorni prima del Natale del 2004, due giovani uomini, uno con la cravatta rossa e l'altro con la giacca gialla, entrano da Christie's, la famosa casa d'aste, a New York. Affermano di rappresentare un collezionista privato, Mr. Beckman, che vuole vendere alcuni libri molto rari. L'uomo in giallo ha una valigia rossa. Contiene una serie di schizzi a matita del naturalista John James Audubon. Una prima edizione di On the Origin of Species, sull'origine delle specie, di Charles Darwin, e due preziosi manoscritti del XV e del XVI secolo. La responsabile di Christie's che se ne occupa capisce che c'è qualcosa di sospetto in quell'incontro. Prende tempo, sostenendo che il suo capo non c'è e li ricontatterà il giorno dopo. Secondo i documenti del tribunale del Kentucky, quelli erano due ventenni, studenti universitari, cresciuti nello stesso quartiere benestante di una cittadina di 300.000 abitanti, che si chiama Lexington, nel Kentucky, appunto. Ex compagni di squadra che avevano giocato insieme a calcio. Dopo qualche settimana da quel giorno, loro due e altri due complici sono stati accusati in un tribunale federale di avere rubato i libri della Transylvania University Library e di averli trasportati oltre i confini dello Stato. La storia è andata così. Il 17 dicembre del 2004, un uomo che dice di essere Walter Beckman va a visitare la biblioteca delle collezioni speciali della Transylvania University. La collezione si trova al secondo piano della biblioteca, in una stanza vetrata, sempre chiusa a chiave. Per arrivarci si accede da una scala che non è visibile dal piano di sotto. Si consiglia di andarci sempre su appuntamento e Beckman ne prende uno utilizzando un'email da un account di Yahoo. La collezione comprende un'edizione composta a mano dei Quadrupedi vivipari del Nord America di John James Audubon, un libro composto da meravigliose illustrazioni di natura e animali, grande quanto un piccolo tavolo e di grandissimo valore, al punto che qualche anno prima un libro meno importante di questo era stato venduto per 9 milioni di dollari. Beckman, una volta dentro, chiama col cellulare un secondo uomo che lo raggiunge in biblioteca. I due a questo punto estraggono una pistola stordente, una taser, di quelle utilizzate dalla polizia americana. La usano sulla bibliotecaria, unica persona presente in quella stanza, oltre a loro. È una signora sulla sessantina, placida, gentile. Loro la stordiscono, la legano e la immobilizzano. Prendono il libro più grande, oltre a 20 schizzi a matita disegnati proprio da Audubon. La prima edizione di Darwin, di una storia naturale, e un manoscritto miniato del 1425, e poi due grandi fogli disegnati. Prendono un ascensore, cercano di raggiungere il garage dove hanno lasciato l'auto, ma sbagliano a schiacciare il tasto del piano a cui devono recarsi. Sono sudati, sono agitati, sono due ragazzi. Le cose non sono andate come dovevano, e il libro è pesante, è difficile da trasportare. La direttrice della biblioteca li vede mentre scappano. Intima loro di fermarsi, loro lasciano cadere i due fogli e corrono verso l'automobile, raggiungono una monovolume grigia dove altri due uomini li stanno aspettando e partono allontanandosi su quell'auto. A little green bag, got to find just the kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Looking back on the track for a little green bag, got to find just the kind, gonna lose my mind. Looking for some happiness, but never so lonely to survive. All'interno del furgone i due sono inizialmente convinti di essersene andati con niente in mano, ma dopo aver controllato le proprie borse scoprono che hanno preso quasi 750.000 dollari di libri e manoscritti rari. Sorprendentemente i quattro criminali dilettanti riescono ad evitare la cattura per settimane. Dopo la rapina si recano a New York City, da Christie's appunto, cercando di far valutare quei libri. La loro intenzione è quella di vendere i manoscritti a dei compratori del mercato nero, ma per farlo hanno bisogno di fornire un certificato di valutazione di una grande casa d'aste, altrimenti non avrebbero accettato la merce. Nonostante si vestano con i loro abiti migliori e si presentino come emissari di un solitario e schivo collezionista d'arte, non riescono a farsi valutare i manoscritti. Vengono catturati poche settimane dopo, nel febbraio del 2005. Un investigatore ha raccontato che, se per mettersi in contatto con Christie's non avessero usato lo stesso indirizzo email che avevano usato per fissare l'appuntamento con la biblioteca, molto probabilmente l'avrebbero fatta franca. Ma con la sorveglianza 24 ore su 24 dell'FBI, incluso un detective sotto copertura che si fingeva uno studente universitario, non ci è voluto molto perché gli investigatori collegassero i punti. E quando uno di loro si è finalmente reso conto di aver usato la stessa email due volte, lui e i suoi complici sapevano che era solo una questione di tempo e hanno atteso che la polizia li andasse a prendere. Ed è accaduto così l'11 febbraio del 2005. Una squadra SWAT ha sfondato la porta d'ingresso di un bungalow dove due di loro alloggiavano. Una task force di 20 uomini della polizia di Lexington e degli agenti dell'FBI li ha portati via, insieme ai libri rubati, ai piani scritti per il furto, alle parrucche, ai costumi e alle pistole taser. Nel frattempo, altri due venivano portati in carcere nello stesso modo. A ciascuno è stata inflitta una condanna identica, scontando alla fine oltre 7 anni di carcere. I quattro oggi hanno scontato la loro pena e hanno vite diverse. Warren Lipka, l'ideatore, ha appena finito l'università, ha preso un master in cinema e arte e tecnologia, mentre Spencer Reinhardt, il suo amico più caro, oggi è un pittore e disegna soprattutto splendidi animali americani. If you didn't care, what happened to me? I didn't care for you. We would zigzag our way through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. Questa storia l'ho scoperta guardando un film molto interessante, un film del 2018 di un regista che si chiama Bart Lighton, un regista di cui avevo visto e credo avessimo già raccontato anche una storia che si chiamava The Impostor, l'impostore, una storia molto cupa di un bambino che sparisce e un giorno riappare ma è diverso da quello che era prima, solo che tutti fanno finta di conoscerlo perché dicono beh certo sono passati 6 anni, sarà cambiato, e invece quel bambino non era lui, era appunto un impostore di nota fama, un tizio francese che è tuttora in giro in Francia a piede libero. Questa storia invece, che anch'essa è una storia vera, è diventato un film che si chiama American Animals, cioè Animali Americani, è un film del 2018 appunto, ed è un film che è molto interessante perché mescola degli attori che recitano la parte di questi protagonisti proprio a quei protagonisti, quindi se guardate il film ci sono degli attori molto bravi che raccontano e recitano tutti quanti i passaggi che li hanno portati a rubare quei manoscritti e poi a finire in carcere, mescolate però le testimonianze dei veri e propri protagonisti. Si intitola Animali Americani. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi raccontiamo di nuovo i vostri diari dalla quarantena. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. quando ti sei innamorato, quando hai scelto di cambiare le cose, quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. I diari della quarantena sono una sorta di fotografia che grazie a voi stiamo facendo in questo momento di questo paese e delle persone che lo vivono, cioè dei cittadini, degli ascoltatori di questa radio, evidentemente, di come stanno vivendo bene e male nelle loro case, nelle loro auto, furgoni, se stanno lavorando, nei loro uffici, se non riescono a fare a meno di andare a lavorare o nelle fabbriche, insomma, come si sta vivendo la quarantena in questo periodo. La prossima storia è la storia di un nonno, si chiama Casimiro. Dice così: buongiorno, sono Casimiro, un giovane bisnonno che la quarantena ha tenuto lontano da alcuni dei suoi figli e nipoti. La voglia di rivederli e stringerli al cuore è veramente tanta. Così l'altro giorno è successo questo. Noi non sappiamo se questo sia accaduto realmente oppure se in qualche modo Casimiro abbia voluto raccontarcelo perché è una sua speranza recondita, però è una bellissima speranza. Sento un miagolio, apro gli occhi e vedo la luce del giorno filtrare attraverso la serranda. Guardo l'ora, le 6:30, mi alzo senza fare rumore, non voglio svegliare mia moglie. Presa una scatoletta di mangime, vado nello stanzino dove il mio bel gattone, come tutte le mattine, aspetta la dose di cibo che lo terrà tranquillo per almeno 4 ore. Sistemato Peppino, il mio gatto, mi affaccio al balcone. La giornata promette bene. In cielo nemmeno una nuvola e l'aria profuma di primavera. Rientro e mentre preparo la caffettiera sento la nostalgia prendermi l'anima. Ho voglia di baci e abbracci del mio caro, vivacissimo nipotino. È da tempo che non lo vedo, né lui e nemmeno suo fratello. Il genio di casa, che a volte ci sbalordisce con le sue invenzioni. Mi preparo. Dalla dispensa prendo le uova di Pasqua, che avrei dovuto portare loro prima della festa, e insieme a dei biscotti, merendine e qualche regalino metto tutto in un borsone. Accendo la radio e metto dentro un CD di musica da ballo. Mi terrà compagnia in auto durante quella mezz'oretta del tragitto. Ingrano la marcia e via. Man mano che scorre la strada ai miei occhi si presenta quel magnifico spettacolo all'orizzonte che non vedo da mesi, dal promontorio di Tindari a Capo di Milazzo. È un colpo d'occhio. Mi fermo, scendo dall'auto e mentre respiro a pieni polmoni quell'aria frizzante e profumata, continuo a godermi quel paradisiaco panorama di quel tratto di costa tirrenica. Mi sento già meglio. Mi sento rinfrancato dalla quarantena che va avanti da parecchi giorni, perciò riparto. Soltanto pochi minuti e sono al cancello. Ancora prima che possa scendere dall'auto vedo il piccolo venirmi incontro gridando «Nonnoino, nonnoino!». Mio figlio avrà sentito il bimbo gridare e ha aperto il cancello, quindi lo prendo tra le braccia e lui si stringe così forte al collo come non volermi lasciare respirare. Guardo verso casa, vedo avvicinarsi anche l'altro nipotino, suo fratello, più grande di lui, di circa 8 anni, che come il piccolino è felice di vedermi, ma si limita a porgere la guancia per essere baciato. Subito dopo vedo mio figlio e mia nuora, sono felici, e sono felice anch'io di rivederli tutti e poterli riabbracciare. Peccato che mia moglie non ha voluto seguirmi. Mi accingo a prendere il borsone del bagagliaio ma sento il cane abbaiare e guaire, sta aspettando che come ogni volta vada a regalargli alcune carezze. Alla fine entriamo in casa mentre i bambini scartano l'uovo per scoprire cosa riserva loro la sorpresa. Mia nuora prepara il caffè. Avremo tante cose da dirci e invece parlo del cane, dell'orto, delle birichinate del piccolo. Lo vedo rientrare in casa di corsa mentre insieme a Gabri restiamo a ridere. Per un attimo resto solo. Esco, mi siedo sul muretto, appoggio la nuca contro il muro e chiudo gli occhi. Qui il profumo di primavera è ancora più intenso. Il cinguettio degli uccelli che saltano da un albero all'altro viene disturbato dall'abbaiare del cane. Forse qualche gatto sarà passato vicino al suo recinto, chi lo sa. A un tratto sento una voce alle mie spalle. È mia nuora che mi dice «Il caffè è pronto!» «Il caffè è pronto!» mi ripete. E mi fa sentire il tintinnio del cucchiaio battuto contro la tazzina. Allungo la mano per prenderla, apro gli occhi e vedo mia moglie con la tazzina in mano, vicino al letto. Mi guardo intorno e capisco. È stato un sogno. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till sunbeams find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me. La storia di Casimiro probabilmente è una storia che è molto comune a diverse persone, a diversi nonni che non vedono l'ora di vedere i nipoti e che sono tenuti lontani da loro proprio per proteggere loro, perché una delle poche cose, delle pochissime cose che abbiamo capito di questo virus è che, insomma, le persone più deboli sono le persone più anziane, che magari hanno qualche pregresso, e quindi l'input è stato sin dall'inizio: state a casa, ma soprattutto i nipotini li vedrete quando tutto andrà meglio. E quindi probabilmente questi sono gli effetti anche. E se quello che abbiamo raccontato era un sogno, anche se magari un sogno ad occhi aperti, invece la seconda puntata, il secondo episodio della storia seriale che abbiamo attaccato ieri, potrebbe essere un incubo. È la storia di un figlio, anche se in questa prima parte stiamo raccontando che cosa è accaduto e che cosa ha fatto il padre. È la storia di un figlio che sopravvive a un incubo che è stato messo in scena dal padre. Nella prima puntata di ieri quest'uomo raccontava in una lettera come la sua meravigliosa famiglia, fatta di sua moglie e di suo figlio, avesse vissuto anni felici, parlando dei Natali in particolar modo, dei Natali di gioia, prima con qualche problema economico, poi i problemi economici sono passati e quindi migliorava la qualità anche proprio della quotidianità, dei Natali, della vita insieme, fino a che lui stesso diceva ho fatto questo errore clamoroso, ho fatto una cosa di cui non mi potrò mai perdonare. E ora quel racconto continua così. Ultimamente alcune cose hanno preso una piega diversa. Da altro un anno posso beneficiare di permessi premio, prima con uscite in permesso grazie al progetto Scuola Carcere, cercando di fare prevenzione con gli studenti che a migliaia ogni anno incontriamo. A loro porto come testimonianza la storia che, per mia responsabilità, ha travolto la mia famiglia, con la speranza che loro imparino a fare quello che non ho saputo fare io, chiedere aiuto nei momenti di più pesante difficoltà. Per me invece questa è l'occasione per riflettere e consentirmi un durissimo percorso di autoanalisi. Grazie a questi progetti ho potuto ampliare gli spazi di incontri con mio figlio, i miei nipoti, mia sorella, mio cognato, moltissimi amici. È una strada che mi sta portando gradualmente al mio reinserimento in quella società che mi ha visto presente prima del mio reato. Ho iniziato i miei primi permessi a casa di mia sorella e ogni volta a prelevarmi e riportarmi a mio figlio, quello stesso figlio che ha subito direttamente e indirettamente il mio reato, ma che ha voluto riavvicinarsi quasi subito al proprio padre. A ottobre abbiamo festeggiato il suo 23° compleanno assieme alla sua fidanzata e ai suoi familiari. A giorni sarà Natale. Qualche addobbo, anche se minimo, l'ho preparato nella mia cella. ma questa volta il Natale sarà diverso. Per 7 giorni sarò a casa da mia sorella e so già che ci sarà come una processione di amici e parenti. Alcuni non li vedevo dal mio ingresso in carcere, anni e anni fa. Sarà un Natale che ritorna ad essere vissuto in un ambiente familiare, tanto calore, tanti abbracci, e a chi non potrò incontrare lo potrò salutare con tante telefonate. Grazie a mio figlio e a chi lo circonda posso pensare ad un prossimo futuro di ricostruzione di legami forti. Di certo non potrò recuperare tutto ciò che ho perso e annullato, ma la mia volontà è di poter mettere me stesso al servizio degli altri. Nessuno dice che non dobbiamo pagare per il reato commesso, ma quello che chiediamo è di tenere conto che anche chi ha sbagliato ha dei diritti, primo fra tutto il diritto di amare i suoi cari. Questa storia è una storia davvero cupa e difficile anche da raccontare, di cui non vogliamo dirvi niente in anticipo, vogliamo farvela seguire lentamente. Avete capito che c'è un uomo che ha compiuto un crimine terribile e lo dice apertamente, il figlio ne ha pagato i danni indirettamente e direttamente. Capiremo più tardi che cosa intende con queste parole. E parliamo di un figlio, ovviamente, che nonostante tutto riaccoglie il padre nella sua vita. Insomma, continuate a seguire questa storia seriale, che poi potete anche risentire in podcast in un unico blocco. Ascoltate il podcast di questo programma, ma soprattutto, se vi va, mandateci una vostra storia di confine, una vostra storia che abbia in mezzo una linea d'ombra. A lineadombra@radio24.it. Grazie a Danita Panizza, grazie a Mauro Pescio, a Paolo Corleoni e a Luca Micheli. Ora la linea al GR, torniamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!